fuori quasi giorno, sto pensando a te, disperato vuoto dentro me. E niente è mai perfetto, niente come vuoi, siamo soli adesso pure noi. Non so chi mi aiuterà a dimenticarti quando me ne andrò da qui. A quanto male ci starò, che sarai di un altro, lo so, ma è giusto così. Ti cancellerà, non verrò a cercarti, io ti scorderò, servirà del tempo e guarirò. Tutto quanto è fermo a te, tanto il resto cambia, vivrò ma non vivrò. Mille volte scoprirò che non mi innamoro, anche questo tu lo sai. Questa volta forse la farei.